9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Bene, cari ascoltatori, iniziamo con la prima pillolina in questo martedì 9 ottobre. Vengo anch'io, tangenti per le colonie dei bambini a Milano, bufera sull'assessore della Moratti. Dalle case di lusso a prezzi stracciati agli incarichi tra i membri della cerchia spunta. Ma chi? Il prefetto. Vengo anch'io, viene anche il prefetto a ruba ruba, magna magna. E scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Il mondo migliore, Damiano, Damiano del PD, l'ha già immaginato. Hanno votato la riforma Fornero delle pensioni, ma adesso, quatti quatti, lemmi lemmi come dei bei gattoni, siccome si avvicinano le elezioni, ecco che Damiano vota una bella norma. Tutto torna come prima. In pensione a 58 anni. È la frontiera del progresso rosso. Certo, dice che costano 5 miliardi, poi si scopre che ne costano 17. Ma lui dice: che problema c'è? Che problema c'è? Basta con la gente che vota una cosa, ne fa un'altra, ne pensa una terza e poi spaccia per progresso il buco nelle nostre tasche. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. No, no. Per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Perché no, perché no. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 9 ottobre. Un augurio a chi si chiama o Dionigi o Abramo, perché oggi è anche Sant'Abramo. Quindi... che dobbiamo dire, Abramo, sapete, stava a Ur, in questa cittadina della mezzaluna fertile, e da Abramo nasce una certa storia e una certa progenie più numerosa delle stelle in cielo. Questa fu la promessa. Sono pochi gli Abramo che io conosco, ma insomma è un gran bel nome. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Matteo Renzi, delle primarie nel PD, e quindi iniziate subito a telefonare per dirci come la pensate. Se apprezzate l'iniziativa del sindaco di Firenze, se condividete le tantissime critiche che gli vengono rivolte, cosa pensate poi di un partito che comunque sceglie le primarie come metodo per coinvolgere gli iscritti e gli elettori nella designazione della guida dell'alleanza ancora da costruire nel centro-sinistra, se preferite questo metodo oppure quello degli altri partiti che naturalmente se ne guardano bene. Allora io vi dico in tre punti come la penso prima di aprirci agli altri ospiti. Avete qualcuno, forse voi, anche ascoltato che stamattina il presidente del Consiglio Berlusconi, in una telefonata su Canale 5 a Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, ha confermato il suo epocale a ripasso indietro, a ripasso avanti, a ripasso indietro. Adesso Berlusconi dice che per il bene del paese, naturalmente, non perché nei sondaggi sia peggio che a Picco la fossa delle Marianne, l'ipotesi per cui era tornato in campo, no, lui dice che per il bene del paese bisogna che tutti moderati si mettano tutti insieme, tutti rinuncino alle ambizioni, ha detto, come io ci ho rinunciato, mi scappa da ridere, e quindi si mettano tutti insieme i moderati, che lui dice essere tutti quelli che non si riconoscono in vendola nella CGIL. È ovvio che si tratta della pura crisi di un leader senza futuro e senza passato, che di fronte al suo partito, che ha aspettato cieco, muto e sordo, come di fronte alla riapparizione della Madonna, la sua riapparizione, che poi ne ha misurato purtroppo le conseguenze, oggi fa il passo indietro ennesimo. Vedremo cosa succede al PDL, ma il punto è che lì di criteri, di regole dal basso per coinvolgere gli elettori e per coinvolgere gli iscritti, non se ne sono viste, mentre invece il PD, tra i tanti difetti che ha, questo merito ce l'ha. È un merito quello di dire, per identificare il capo di un'alleanza, chiediamo ai nostri iscritti e ai nostri elettori. Io questo merito almeno glielo riconosco, tra le tante contraddizioni di un partito di cui non condivido la linea, di cui sono il primo a dire che la sua leadership è stata frutto sempre di oligarchie. Ricordate l'unica volta in cui fu coinvolta la base del PD in una delle sue precedenti versioni nella scelta del segretario? Quando si espresse, ve lo ricordate, il popolo dei fax? Il popolo dei fax indicò Veltroni come segretario. Naturalmente quella volta lo fece D'Alema, il segretario. Dopodiché vennero Veltroni, eccetera, eccetera, è venuto Fassino, sempre figli di un compromesso tra un'oligarchia. Anche Bersani è figlio di un compromesso tra un'oligarchia, che ha indicato in Bersani un leader di non, diciamo così, travolgente carica personale, quindi un garante perché le diverse anime del partito potessero convivere da quella atto comunista della Bindi e Franceschini a quella dei liberal di Enrico Morando, a quella dei professional di Enrico Letta e così via. Detto questo, però, la scelta di dire di fronte a una coalizione di centrosinistra ancora da costruire, perché non si capisce ancora formalmente se poi ne fanno parte Sel, Vendola, di cosa fare con Di Pietro, che poi deve tutto della sua vita politica, prima al PD che gli regala il seggio del Mugello tanti anni fa e poi a Veltroni che gli regala l'esistenza in Parlamento, quindi una coalizione ancora da costruire, ma la scelta di farlo coinvolgendo gli iscritti e gli elettori, questo secondo me è positivo. Seconda cosa, non so se Matteo Renzi abbia fatto bene ad accettare queste regole, perché le regole non sono quelle di primarie aperte con cui Prodi, ricordate, portò, almeno così si disse, più di 3 milioni di italiani alle urne delle primarie del PD. Queste sono, come dire, delle primarie semichiuse. Hanno accettato l'idea di redigere un albo pubblico di coloro che si riconoscono nel manifesto che verrà stilato del centrosinistra e quindi si dichiarano suoi elettori a prescindere, chiunque vinca nelle primarie. E questo elenco verrà aperto 21 giorni prima del primo turno delle primarie e dopodiché si chiude il giorno delle primarie, quindi a quel punto, quando si vota il secondo turno, se nessuno ha preso il 51% dei voti tra i primi due, non si può aggiungere né levare nessuno. A me questa sembra una regola un po', perdonatemi, stupida, perché che cosa vuol dire che io sono elettore a prescindere da chi è il premier, che vincerà o perderà? Ma perché? Visto che a candidarsi sono Matteo Renzi, Bersani e Vendola, secondo voi devo dichiararmi elettore sia nel caso in cui c'è Vendola sia nel caso in cui c'è Renzi? Non mi pare, no, che sia una buona regola. Mi sembra una regola da partito chiesa, di quelli che dice, per evitare che ci siano presenze impure. Sapete che l'accusa a Renzi è quella di essere una specie di burattino nelle mani della destra. Allora, prima costituiamo la Santa Armata. Poi, a prescindere da chi vince, la Santa Armata deve rimanere unita, altrimenti i traditori. Ma a me non sembra una buona regola, devo dirvi. Però, detto tutto questo, il punto è che se Renzi a questo punto, con queste regole, riesce a portare veramente tantissimi italiani al voto, perché c'ha l'ostilità del più della macchina per ragioni di contenuto, perché non stimano il suo modo di fare e così via, dovrà portare moltissimi esterni per farcela, altrimenti nel secondo turno la candidatura di Vendola, per così dire, ha regalato a Bersani il fatto di essere un candidato mediano di centro, quindi Bersani, a quel punto dicono tutti gli esperti, nel secondo turno vince per forza. Renzi, ho concluso, dice che se perde resta come umile soldato del PD. So che questa cosa piace molto al popolo della sinistra, perché noi siamo leali, dicono siamo eticamente superiori, non ci sono le ambizioni. Ve lo ripeto però, chi si propone di fare il rottamatore di una generazione e dice dobbiamo cambiare faccia e politica, non è che a quel punto dice magari vince Vendola, cioè, è tutto uguale, perché questa non è politica, questa è, a mio giudizio, la proposizione di una lealtà di parte che prevale sulla sostanza delle cose per cui si fanno in politica. Ma vedremo. È ovvio che chiunque la pensa come me, con queste regole, non può andare a votare alle primarie, e non ci andrà, perché significa dire sono elettore del PD a prescindere. Chi pensa a un'offerta politica fuori dai vecchi partiti, con primarie così, non ci può andare, e credo che queste regole siano state fatte un po' apposta anche per questo. A me quello che non piace delle tante polemiche nei confronti di Renzi è un po' il tono di alcune di esse. Sui contenuti io sono il primo a dire che non ho ancora capito bene Renzi cosa vuole fare. Ho letto il suo programma, però quando vedo poi che va in televisione e dice per reggere l'Italia in piedi diamo 100 euro pubblici a tutti quelli che hanno meno di 2000, insomma, mi sembra veramente, sì, anche questa una vecchia berlusconata. Non è che l'Italia si rimette in piedi stampando soldi e dandoli alla gente così. Detto tutto questo, quando vedo i toni come quelli usati da Eugenio Scalfari domenica, che dipingono Matteo Renzi come una specie di quisling, un traditore, un pupazzo nelle mani di un televisionario ex Mediaset come Giorgio Gori, insomma un reietto senza arte né parte, uno che si è montato la testa ed è porta dentro di sé quasi un virus invece che essere l'antidoto a un problema, alle vecchie faccia, ecco, allora lì io mi preoccupo, perché vedo un po' la reazione della vecchia maniera con cui a sinistra si isolano i traditori, per così dire, ecco, gli agenti del nemico. Però, per carità, questa è la mia opinione, sentiremo come la pensate voi. Iniziamo a sentire intanto come la pensano due, tra virgolette, signori osservatori di peso della stampa italiana, perché abbiamo con noi Claudio Sardo, che è il direttore dell'Unità, buongiorno. Buongiorno. E Giorgio Mulè, che è il direttore di Panorama, buongiorno. Buongiorno. Allora, Sardo, innanzitutto vediamo un po' in sintesi come la pensa lei. Queste regole sono regole aperte e buone, e perché non più le primarie come ai tempi di Prodi? E secondo, il suo giornale mantiene una posizione, insomma, per così dire, aperta, ma non fa mancare le critiche. Che cos'è che non la convince di più del modo in cui Matteo Renzi ha preso l'iniziativa fino al punto quasi a obbligare questo partito alle primarie fatto in questo modo? Ma le regole, secondo me, sono io non credo che da una regola, da un emendamento, cambi la sostanza della questione. Devo dire, vedo anche con un certo fastidio un eccesso di concentrazione polemica sul tema delle regole. La sostanza è che, come diceva lei, ci diamo del lei, anche se siamo amici, quindi posso darti del tu, anche se, diciamo, è evidente che possono votare soltanto quelli che sono elettori del PD, cioè questa strana simmetria italiana, cioè le primarie sono una logica di sistema, cioè o le fanno tutti o presto smetterà di farle anche il PD. È ovvio che c'è una grande domanda di partecipazione politica, il principio non scritto però fondativo delle primarie è che la scelta appartiene a quegli elettori che sono stabilmente di quel partito, nel senso che lo voteranno qualunque sia l'esito delle primarie. Questo, diciamo, è la sostanza. Poi le regole, insomma, non mi appassiona. Secondo me si è fatto un sacco di casino per delle frescacce, perché, insomma, nella sostanza non credo che modificheranno il risultato. Il successo di Renzi dipende dal fatto che solleva un tema giusto, cioè quello del rinnovamento. Nel 94 la sinistra pensò di vincere le elezioni dopo lo sfascio dei partiti tradizionali stando ferma. Ecco, io penso che se non c'è un grande programma di trasformazione, di rinnovamento, un progetto di governo per il Paese che comprenda anche il rinnovamento della classe dirigente politica, il PD non vincerà le elezioni, anche se oggi sembra che non può che vincerle. Ah. Questa domanda Renzi risponde positivamente. Il limite di Renzi è che sembra che sta facendo un congresso di partito, cioè parla di cose che riguardano il congresso del partito, cioè non c'è una questione che effettivamente ponga di fronte ai cittadini elettori il tema del governo italiano, il governo europeo, perché è lì che si colloca la grande sfida del dopo Monti. Quindi la sua opinione è che intanto, ci ha detto una cosa, una previsione di quelle non proprio scontate, quando anche poi il PD oggi è in testa come primo partito nei sondaggi e così via, ma se non abbraccia nella sostanza un po' la questione del rinnovamento, qualunque sia l'esito poi alle primarie di Renzi, mica ha detto che ce la fa, anzi lei ha detto penso che non ce la faccia. Io penso che la vicenda del noi siamo in una situazione forse ancora più grave del 93 in termini di sfiducia dei cittadini verso la politica, di degrado etico, e la domanda di trasformazione politica si intreccia con una domanda di rinnovamento delle classi dirigenti. O si va con una proposta che sia realistica, seria, cioè noi stiamo parlando di un paese, di un governo di un paese debitore che ha grandissimi problemi nel raccogliere sul mercato i finanziamenti necessari per la sopravvivenza della nostra comunità statuale. Sappiamo che la svolta politica può avvenire soltanto in Europa. Dobbiamo avere un governo credibile, ma anche presentare ai cittadini un grande programma di trasformazione. Nel centrodestra, come insomma in queste ore si vede, in tutta l'area che va dai moderati alla destra radicale, c'è una grande incertezza, confusione, ma secondo me emergeranno nuove offerte politiche. Il PD, se pensa di vincere stando fermo, rischia di commettere lo stesso errore del 94. La domanda di Renzi, secondo me, per questo ha successo. Però, secondo me, finora Renzi dà una risposta sbagliata. Sembra quasi un congresso di partito, un concorso di bellezza. Il tema è che bisogna rispondere. Io sono in grado di fare l'alleanza con la SPD, con i socialisti francesi, e di modificare l'asse della linea europea, cioè questa è la proposta che serve, ecco. Allora Mulei, faccio anche a lei le stesse due domande. Primo, che impressione ha avuto da queste regole diverse da prima? Dice Sardo comunque influente rispetto al fatto che si terranno e non saranno tanto le regole diverse a mutare l'esito della cosa. E secondo, cosa la convince e che cosa non la convince fino a questo momento dell'iniziativa che Renzi ha assunto? La regola che si è dato il PD e soprattutto il l'ambaradan, diciamo così con un termine poco filosofico, che c'è dietro la coniugazione delle regole del PD, dimostra quanto in realtà, non dico sia temuto Renzi, ma insomma quanto sia meno poco convinto delle sue possibilità l'apparato dirigente del PD. E l'ambaradan, visto che l'abbiamo chiamato così, sulle regole del PD nasce delle primarie, nasce anche da una semplice constatazione empirica, cioè laddove si sono tenute le primarie negli ultimi anni, il gruppo dirigente del PD è stato sempre sonoramente sconfessato o sconfitto in tutte le primarie, fossero a Napoli, in Puglia, a Genova, in tutte le città è stato sconfessato. E quindi da questa, come dire, dall'essersi scottati, nasce la necessità di fissare delle regole che siano il più possibile, che tengono lontano lo spettro dell'ennesimo e a questo punto finale colpo di spalla a questo gruppo dirigente. Da questa paura nascono quindi tutte le trappolette, così come vengono interpretate, sul cammino di Renzi. Non ultimo, io segnalo anche una cosa che secondo me è molto antipatica, adesso non c'entra nulla col finanziamento della politica, ma trovo veramente ingeneroso, lo trovo contrario alla storia del partito, il fatto di non dover far pagare, perché sai, far pagare un euro, due euro può essere ancora ammissibile, ma insomma prevedere una specie di tassa di 5 euro per ognuno che va a votare, posto che gran parte dell'elettorato del PD è fatto anche di gente che, come dire, come tanti, fa fatica a arrivare alla fine del mese, lo trovo oggettivamente molto, ma molto, come dire, fastidioso, soprattutto da questo partito, visto i cassintegrati, tutto quello che sappiamo. Insomma, a parte questo, le regole delle primarie tradiscono la paura, la profonda paura che questo gruppo dirigente ha di perdere il potere, di fatto, all'interno del proprio partito. sulle proposte di Renzi. Adesso Renzi interpreta il nuovo, ma anche qui usciamo definitivamente dal fatto che il nuovo debba essere impersonificato da chi ha meno di 40 anni, e lo dice uno che ha poco più di 40 anni, anche perché abbiamo esempi davanti ai nostri occhi che il giovanilismo non corrisponde affatto alla pulizia morale. Insomma, se uno è sporco a 30 anni come lo è a 60 anni. Quindi, scombato il fatto dal problema anagrafico, mi fanno anche ridere quelli che dicono: ma Tony Blair è diventato a 40 anni, Cameron a 40, Obama a 50. È tutto totalmente imparagonabile, e non è perché è arrivato a fare il primo ministro perché aveva 40 anni, è per quello che diceva, e arriva al nocciolo. Io vorrei davvero che si parlasse di più, ed è quello che chiederemo a Renzi, chiederemo a Bassani, si parlasse di più di temi concreti, cioè sulla produttività, sulle regole del lavoro, sugli incentivi alle imprese, sulla capacità di rimettere in moto questo paese. Quali sono le proposte concrete? Cioè dei duetti e dei duellini, come dire, oramai davvero abbastanza stucchevoli, legati alla battuta, alla battutina. Io penso che siamo tutti, intendo elettorato moderato, di centrodestra, di centrosinistra, tutti cittadini italiani, stanchi, e soprattutto rifiutiamo una logica che è quella di una contrapposizione che oramai è sterile, non porta a nulla. Ci dica Renzi su alcuni temi fondanti dell'agenda politica prossima avventura italiana, che cosa intende fare, dove vuole andare, quali principi sposa e quali invece non intende seguire, il rapporto con i sindacati, la contrattazione di primo livello, di secondo livello, se la vuole incentivare, cioè esca fuori sui problemi reali e farà un servizio prima di tutto ai suoi elettori e poi anche al resto dell'elettorato italiano. Allora, nel frattempo ai nostri sms al 349-238-6666, opinioni vaste e diverse ovviamente, eterogenee, ma molti, il più fino a questo momento, segnalano quello che secondo me è un piccolo problema, per così dire. Per esempio, ci dice Maurizio: io voterò Matteo perché può far vincere il centrosinistra, Firenze è un buon sindaco, gli altri purtroppo sono dei vecchi tromboni, Bersani può essere un buon ministro ma non un leader, e dice: certo, però se perde ci penserò due volte prima di votare il partito. Altri, come Andrea da Novara, dicono: io andrò a votare, ma se non dovesse vincere Renzi mi sento libero di fare come voglio, nessuno può obbligarmi a essere fedele a un'indicazione di voto. Ce ne sono veramente tantissimi di sms come questi. Sentiamo Giorgia dalla provincia di Bologna. Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Per me un punto fondamentale è che Fassina l'altra sera ha in onda sulla 7 ha detto che secondo lui addirittura le liste di chi va a votare alle primarie dovrebbero essere pubblicate, probabilmente online. Sì. Questo mi sembra una regola appunto per tagliare fuori Renzi. Voglio dire, alla fine il libero professionista sarebbe non incentivato ad andare a votare alle primarie. Il libero professionista è qualcuno che voterebbe Renzi. Sì. E questa, insomma, che capisco, la pubblicità dell'albo è una pubblicità fatta apposta ovviamente per tentare di incastrare quelli che, come il nostro Andrea da Novara, dicono: vabbè, io tanto ci vado a votare, poi voterò alle politiche come diavolo mi pare. È ovvio che rendendo pubblica la lista è un criterio per indurre chi va e sceglie di mettersi in lista degli aderenti a rispondere poi con la propria faccia, se invece pubblicamente diventa notorio che sei un elettore di un altro schieramento. Un pensiero sintetico che mi è sembrato però fotografare bene la vicenda di Renzi delle primarie fino a questo momento è quello raccolto dal collega Fabrizio Esposito per Il Fatto, e a parlare è Stefano Ceccanti. Stefano Ceccanti, lo ricordo tutti, costituzionalista, sempre una delle anime più critiche, intelligenti e più tecniche anche sulle materie costituzionali del PD. Stefano Ceccanti viene dal movimento referendario, per così dire. Stefano Ceccanti ha dichiarato: è inutile cercare qui dentro all'Ergife, dove si è riunita l'assemblea per le regole delle primarie, i renziani. La battaglia di Matteo Renzi è tutta fuori, non dentro il partito. La lettura degli equilibri interni è vecchia, non regge, ed è proprio questo che spaventa la maggioranza del PD. Il camper di Renzi prosegue Stefano Ceccanti, il camper di Renzi, che gira senza insegne democratiche, viene vissuto come una specie di cavallo di Troia. Il retropensiero generale dei suoi avversari, qui dentro praticamente di tutti, è questo: se Renzi perde andrà per conto suo ed è meglio così. Ecco, questo senso di alterità, di irriducibile diversità antropologica, del fatto che gli manchi deliberatamente i riferimenti a quel vocabolario obbligato che prima ancora dei contenuti esprime l'essere chiusi nella cerchia di un partito, e quando si sta in un partito bisogna stare prima nel partito, fedeli al partito, poi solo dopo contano i contenuti, e se si perde sui contenuti comunque conta prima stare nel partito. Io, essendoci stato per tanti anni, credo di sapere come si ragiona in un vecchio partito. Ecco, questo è in fondo uno dei punti di irriducibilità vera tra questa iniziativa di Renzi e l'evoluzione di un partito contenitore, il PD, che è la somma di partiti chiesa, di partiti con la P maiuscola, come erano il PC, ma non sottovalutate il fatto che anche i cattolici che venivano dalla DC, che sono poi hanno fatto convergenza nel PD, in questa tradizione ci credono, il partito prima di tutto. Si è sempre detto, tra l'altro, che il partito prima di tutto fosse uno dei punti su cui difendere un vecchio passato travolto dai movimenti carismatici, e c'è un elemento di verità, per cui per esempio in Francia, quando le cose vanno bene o vanno male, ma insomma vince alla fine un socialista o vince un conservatore, perché i vecchi partiti poi ci sono e i vecchi partiti un po' ragionano così. Ecco, la difficoltà sta, come sempre, cogliere un punto intermedio tra la fedeltà a un partito per idne a cadavere, a prescindere da chi lo guida, perché questa è la regola che si chiede agli elettori delle primarie: se vince Vendola, se vince Renzi, voi comunque dovete votarlo, che è un po' troppo, e dall'altra però la pura liquidità e la gassosità dei non partiti che non hanno più regole, e in cui quindi stiamo tutti ad aspettare cosa pensa il Berlusconi di turno una settimana qua e una settimana là. Sono molte delle critiche che stamattina, per esempio, hanno qui gli ascoltatori hanno riservato anche al mio attacco molto critico verso il nuovo annuncio di Berlusconi, perché mi dicono piglia i voti e poi critica. Guardate, io non faccio politica, non so se è chiaro, io sono qui a fare l'osservatore, ed è evidente che ad alcuni di voi che sono ancora col nervo scoperto di Berlusconi non sono capaci o non hanno voglia liberamente di fare i conti con il fatto che una formazione politica senza nessuna regola tranne che chi la fonda la guida è una formazione nella quale è giusto che ci si ritrovi chi non discute questo criterio, a prescindere dai risultati, però basta che vi sia chiaro, e a prescindere dai risultati di tanti anni. Allora, sentiamo come la pensano. Marco da Arezzo. Marco, prego. Marco. Sì, buongiorno. Io nel congratularmi per, come dire, il rispetto dell'onestà intellettuale che contraddistingue Radio 24 e sicuramente anche una persona come lei. Ora però, come dire, il vostro gioco o comunque la vostra idea è comunque quella di sbaragliare, perché non credete nella politica, credete nella rappresentazione diretta, ciò che vuole Renzi, ciò a cui Bersani sta cercando di opporsi da quando è segretario e perché è segretario. Pertanto ritengo che Renzi non sia altro che il continuo di una politica di una politica personalistica che ci ha portato a questo punto, senza avendo tolto di fatto il ruolo dei partiti da Tangentopoli, perché Tangentopoli furono accusati partiti di tutto quello che è successo. Il risultato è che non ci sono più partiti, ci sono comunque le tangenti e c'è una rappresentazione diretta degli interessi. Ciò porta a una disgregazione dell'Italia e non certo a un panorama e dagli interventi lungimiranti. Pertanto io credo che nel momento in cui si fa parte di un qualcosa si accettano le regole di questo qualcosa e non per ambizioni personali si rischia di stroncare questo qualcosa. I partiti non si usano per le ambizioni personali. Marco, io rispetto il tuo punto di vista, però dire che i partiti non si usano per le ambizioni personali fa un po' a pugni con l'intera storia dell'umanità. La politica è fatta di ambizioni personali, adesso non è che lo dice Giannino, insomma, public choice, cioè James Buchanan, insomma, fior di ci hanno, tra virgolette, insegnato con tanto di diagrammi e di equazioni che la politica pro tempore massimizza gli interessi di chi pro tempore la guida. Questo vale per la pubblica amministrazione come per la politica. Dopodiché io capisco che il tuo punto di vista sia un punto di vista molto diffuso e credo assolutamente maggioritario, per esempio nel popolo del PD, cioè in chi dice: noi rifiutiamo la semplificazione carismatica, il partito prima del leader. So che il tuo punto di vista è un punto di vista radicato di cui avere grande rispetto. Io penso che sia un po' irreale, perché che D'Alema abbia fatto venire prima il partito e poi il leader mi scappa da ridere. Quando ho ricordato il popolo dei fax, insomma, è evidente cosa è avvenuto negli anni. Però capisco che come, a pensarla come Marco, del tutto legittimamente siano in tantissimi, e quindi assolutamente non bisogna neanche di mancare loro di rispetto. Giovanni da Roma, come la pensa Giovanni? Buongiorno. No, guardi, io sinteticamente volevo dire solamente questo. Non sono del PD, non sono renziano, però così, da spettatore, sì. Credo che, cioè, sono rimasto, diciamo, tra virgolette, scandalizzato che un intero partito, cioè che la dirigenza del più grande partito nazionale oggi, cioè il PD, si sia messa in assetto di guerra contro questo ragazzino. Allora, aspetta, anche se insomma è una persona importante, si deve dire, ma cioè lei dice sono troppo preoccupati perché non vale la pena di preoccuparsi? Cioè, no. Sta succedendo il finimondo, sì. non dormono più, cioè io veramente sono, faccio il tifo per Renzi solamente per un fatto generazionale, perché penso che, diciamo, sono della sua generazione, quindi penso che in Italia oggi trovare un giovane, tra virgolette giovane, diciamo, di questa generazione, trentenni, quarantenni, capace di, innanzitutto che abbia il coraggio di candidarsi di candidarsi, di porre questo problema, lei lo apprezza, ok Giovanni, quindi chiarissimo. Cioè, il fatto solo, non avevo capito se lei all'inizio dicesse si stanno preoccupando troppo per questo moscerino, oppure il fatto che si preoccupino così tanto è per il rilievo dei temi che solleva, il giovane è coraggioso, e questa seconda la cosa che ha detto. Mario da Roma, Mario, come la pensa? Sì, lei? Pronto. Dica. Voglio dire semplicemente che ci preoccupiamo, il partito si preoccupa, perché questa è una delle ulteriori esperienze di scissione del paese. È stato fatto un tentativo da parte della Lega e di Berlusconi di spezzare il paese dal punto di vista geografico, e vediamo tutte le conseguenze terribili che vengono dalle regioni, dal federalismo. Ma questo cosa c'entra con la Lega? No, c'entra perché Matteo Renzi sta tentando di spezzare il paese per generazioni, che è ancora più assurdo. Mario, scusa una domanda, ma scusa, è lui che vuole spezzare in nome della guerra delle generazioni, o funziona così per come lo abbiamo disegnato tra mercato del lavoro, pensioni, eccetera eccetera, questo paese? Lui poi dice semplicemente che non bisogna mettere un limite alla gerontocrazia, cioè un paese in cui, insomma, a 60 anni i ministri che esordiscono al Consiglio dei Ministri sembrano tra virgolette giovani, è un paese che ha qualche problemino, ma questo lo dico semplicemente non per farti riflettere. Perché dici che vuole lui spezzare il paese in nome di generazione, Mario? No, è offensivo proprio nei confronti della cultura italiana, perché in pronto? Sì, prego, ascoltiamo. In Italia, se noi pigliamo tutti gli intellettuali, ci stanno scrittori di 80 anni, che cosa facciamo? Diciamo, tu sei un rottame? No. Ci sono registi di 80 anni, 90 anni che fanno film. Certo. E allora perché impostare un serissimo problema politico che richiede idee originali, perché l'Italia è precipitata da un partito azienda, è precipitata, adesso vogliamo fare un altro partito personalistico? Cioè Matteo Renzi c'ha da solo le regole e le possibilità di risolvere il problema in Italia, non è possibile. Occorre, voi in trasmissione, Radio 24 è completamente omogenea, perché da Milan a Oscar Giannino, a chi fa la trasmissione economica, a quello che fa le trasmissioni la sera, c'è una grande omogeneità, c'è un gruppo, e questo è fondamentale, e non si può spezzare il gruppo con dire quello è più vecchio e io sono più giovane. Ok, questa è la tesi, questa è la realtà, la realtà è il tuo punto di vista, Mario, il punto di vista di chi dice c'è un patrimonio collettivo che Renzi incrina con questo criterio generazionale sulla leadership. Ok, Gioacchino da Como. Gioacchino, come la pensa invece? Buongiorno Oscar, buongiorno gli ascoltatori. Sì. Io sono un esponente del PD, sono anche un consigliere comunale. Io credo che sia positivo le scese in campo di Renzi, anche se io sto con Bersani. Avrei preferito che Renzi la battaglia la conducesse all'interno del partito. Avevamo una necessità di rinnovare il quadro dirigente. Abbiamo parecchi giovani che stanno in panchina e che potrebbero dare un contributo alla crescita del partito. Però così ponendosi Renzi fa una battaglia fuori del partito, la nomenclatura si difende, il partito resta arroccato sulle posizioni e non c'è ricambio. Cioè, quel ricambio generazionale serve dentro il partito, ma fuori non serve. Ma quando tu dici, scusami per capire, quando tu dici fuori, essendo le regole delle primarie votate dall'assemblea, perché è fuori? Perché è sbagliato ricorrere anche agli elettori e non solo agli organi? No, no, assolutamente. Infatti giudico positivo che questa posizione di Renzi ci allarga, mette fuori il partito, lo fa riconoscere certo, anche da chi non certo, lo sa, certo, non l'avrebbe mai votato. Però la vittoria di Renzi non porta al rinnovamento del partito, quindi porterebbe Renzi candidato con un partito che non lo riconosce. Ah, ho capito. Ho capito. A quel punto uno vince le primarie per guidare la coalizione e a quel punto però nel partito c'è Bersani, a quel punto un segretario che resta di immediato ferito a morte e il partito nei problemi. Ho capito. Allora, torniamo con Jim Morrison, This is the end, non lo so. Molti degli ascoltatori hanno reagito con gli SMS dicendo non è vero che lui pone il problema solo generazionale, però un problema di durata delle posizioni di comando all'interno di un partito, cosa che è diversa. Questi sono molti elettori giovani che dicono la reazione di chi dice non si tocca perché non è un problema la durata del potere ricoperto in un partito e la reazione di chi vuole continuare semplicemente a coprirlo. C'è questa questione generazionale. Allora sentiamo un minuto e mezzo a testa, cominciando da Claudio Sardo e poi Giorgio Mulè. A questo punto che cosa avviene secondo Sardo? Si estende alla società un dibattito nel partito o si spacca un partito di fronte al fatto che da fuori rompono altri temi secondo te? Ma innanzitutto io penso che sia stato un fatto positivo la candidatura di Renzi, perché ritengo che il tema che tu poni, generazionale, di rinnovamento delle classi dirigenti, di rinnovamento del potere, sia un tema fondamentale. Penso che il PD ha fatto un grande atto di generosità consentendo a Renzi di candidarsi anche se le regole lo impedivano. E il tema non è che il PD sta impedendo a Renzi di candidarsi, il PD ha fatto una forzatura sulle regole, spaventosa, perché a partita già iniziata, ha consentito a Renzi di candidarsi anche se non poteva candidarsi. La questione invece della mi interessa molto le cose che sono state dette dai primi ascoltatori, perché ho un'opinione diversa. Noi dobbiamo considerare che i partiti sono delle minoranze. Non sono delle maggioranze, sono delle piccole minoranze che fanno delle proposte a un paese. L'idea che le primarie possano essere sono un luogo come se fosse un diritto di tutti i cittadini è un'idea sbagliata. No, chiaro, questo è negli Stati Uniti, dove non c'è l'automatica iscrizione nel registro degli elettori, uno si va a iscrivere nel registro degli elettori e può iscriversi come elettore democratico, come elettore repubblicano o come elettore indipendente. Devo stopparti per forza, perché altrimenti impediamo poi a Giorgio Mulè, prima della conclusione, di dire anche il suo ultimo minuto. Prego Giorgio, che ti aspetti tu invece? Beh, mi aspetto che sicuramente, mi auguro che la partecipazione alle primarie del PD siano davvero primarie di popolo e che quindi, a dispetto appunto di tutto quello, delle scaramucce che abbiamo visto, la risposta del popolo sia importante. Questo, come dire, fa bene alla democrazia in un momento in cui i partiti sono allo sfascio, che sappiamo, e c'è questa voglia, si spera, di rinsavimento della politica, e se dal basso arriva questa domanda fa soltanto del bene a tutti. Mi auguro anche che nell'altro versante, quindi in casa del PDL, si arrivi al più presto a capire, anche in base alla legge elettorale, come si andrà a votare, qual è la figura di riferimento. Ancora stamattina, poco fa, Berlusconi ha confermato il fatto di voler fare il passo indietro e quindi di lasciare campo libero ad altro. Io penso che adesso gli alibi sono finiti, quindi chi deve farsi avanti lo faccia. Va bene, benissimo, grazie a Mulè, a Sardo, a domani.